Ehi! E puoi continuare a dormire, non è necessario alzarsi. Oggi è domenica. Ci avete creduto? Ragazzi, oggi è lunedì! Sveglia! Benvenuti all'Early Bird Special. Gent who ran amok in Kent. Lately he's been overheard in Mayfair. You better stay away from him, he'll rip your lungs out, Jim. I'd like to meet his tailor. With the Queen, doing the werewolves of London. I saw Lon Chaney Jr. walking with the Queen, doing the werewolves of London. I saw a werewolf drinking a pina colada at Trader Vic's, and his hair was perfect. Aloha passerottini e passerottine care, buongiorno, questo è lunedì 19 novembre e questo è l'Early Bird Special, la prima colazione che serviamo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle frequenze di Rock FM. Io sono Chuck Bird, ho qui con me una bella pila di bei dischi, il meglio che potete ascoltare nell'etere radiofonico italiano. Volete un esempio? Eccolo qui, Don't Do Me Like That. Lui è Tom Petty e loro sono The Heartbreakers. Can you see? Maybe you were better. Tom Petty and the Heartbreakers, Don't Do Me Like That. Ancora una volta benvenuti all'Early Bird Special. Early Bird Special per chi è già in macchina, per chi sta prendendo il taxi, per chi è alla stazione dei treni e anche per chi aspetta l'autobus. Waiting for the bus, ZZ Top. Barbe più lunghe d'America, ZZ Top, Waiting for the Bus, Early Bird Special, che è in pratica la prima colazione qui da Rock FM. Abbiamo un sacco di buona musica e anche un bel po' di chiacchiere sulla storia, la vita, le opere e i miracoli del rock and roll star. Ho una storia bellissima su come è stato costruito il singolo più costoso della storia della musica rock. Già, vi parlerò di Good Vibration dei Beach Boys, appena dopo White Lion. Let them know we tried, 'cause when the children sing, then the new world begins. Little child, you must show the way to a better day for all the young. 'Cause you were born for the world to see that we all can live with love and peace. No more presidents and all the wars we'll end. One united world under God. When the children cry, let them know we try. 'Cause when the children sing, then the new world must build again. No more presidents and all the wars we'll end. One united world under God. When the children cry, let them know we tried. It's when the children fight, children pray, let them know the way. 'Cause when the children sing, then the new world begins. When the children cry, White Lion, a Lurly Bear Special. Ma non è dei White Lion che vi volevo parlare, ma dei Beach Boys. Durante il 1965, mentre i Beach Boys erano in tour, Brian Wilson decise di rimanersene a casa, incanalando le sue energie in un nuovo modo di scrivere musica. Lasciò fuori dalla porta il surf, le ragazze, il fan delle spiagge californiane, e si concentrò nel creare una ragnatela di suoni con arrangiamenti complessi, quasi da musica classica. Con lo sbocciare della consapevolezza di Wilson, operazione aiutata da forti quantitativi di acido ed erba, nacque anche la musica. Il febbraio dell'anno seguente, nel bel mezzo delle registrazioni di Pet Sound, il 23enne a capo dei Beach Boys inizia a lavorare su di una nuova canzone. La sua ispirazione arriva da un ricordo della sua infanzia. Un giorno stava passeggiando con sua madre e un cane cominciò ad abbaiare contro di lui. «Non agire come se tu fossi spaventato», gli suggerì la madre, «perché potrebbe recepire le tue vibrazioni». L'idea di rivolgersi alle vibrazioni altrui affascinava Wilson. La canzone cominciò a prendere lentamente forma, lavorata durante le pause delle registrazioni di Pet Sound. In aprile, il Beach Boy Mike Lowe, cugino di Brian Wilson, scrisse il testo e Wilson seguì il cantato con basso distorto, clarinetto, violoncello, armonica e theremin. Good Vibration stava finalmente prendendo forma. L'ingegnere che registrò il pezzo dichiarò che Good Vibration era tutta la vita di Brian Wilson riassunta in 3 minuti di perfezione pop. Per raggiungere questo obiettivo si spesero più di 90 ore di registrazione, suddivise in 17 giorni con i migliori musicisti disponibili sulla piazza di Los Angeles. Il costo della registrazione fu enorme, dai $50,000 ai $75,000. Good Vibration divenne il singolo dei Beach Boys più venduto e la stampa definì Brian Wilson un genio. Non sono un genio, commentò Brian. Sono solo uno che lavora sodo. I love the colorful clothes.

Benvenuti in Kansas! Benvenuti all'Early Bear Special, la prima colazione che serviamo tutti i giorni qui da Rock FM, dalle 6 alle 7, dal lunedì al venerdì. Naturalmente potete entrare in contatto con il vecchio Chuck Bird, lo potete fare sfruttando la tecnologia dei giorni nostri, scrivendo sulla vostra tastiera del computer bird@radiorockfm.com. La dolce Cherie farà modo di stampare le vostre lettere, io sarò felicissimo di leggerle in diretta qui da Rock FM. Per voi Police, Synchronicity! The Police, recentemente riformati, grandi e graditi ospiti qui all'Early Bird Special. In questo momento il vecchio Chuck Bird ha bisogno del suo consueto rifornimento di caffeina. Una tazza di caffè nero bollente, come al solito, portatami dalla dolcissima, elegantissima e super sexy Cherie. Thank you, Cherie.